y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una volta tanto parlerò di qualcosa di cui non so assolutamente nulla, però andando a ravanare nei ricordi fanciulleschi ricordo che talvolta veniamo portati al cinema a vedere degli straordinari filmetti in cui c'era un signore che ogni tanto smetteva a cantare. Io devo qui aggiungere un'ulteriore confessione alle tante che faccio sulla mia genealogia. Sono radicalmente, visceralmente, totalmente e in maniera del tutto irrecuperabile negato ad ogni espressione musicale. Non ho mai sentito musica in vita mia, non l'ho mai ascoltata, non l'ho mai coltivata, non ho strumenti di riproduzione di musica. Faccio tutto perché i miei figli crescano con una passione musicale. Uno studia pianoforte, l'altro si tappa le orecchie soltanto quando sente musica, ma evidentemente i miei geni si trasmettono anche nella figliolanza. Beh, questi film seppi soltanto dopo qualche decennio che si chiamavano Musicarelli. Erano gli antesignani spot promozionali per i cantanti emergenti che, a parte i cantagiro, a parte le manifestazioni canore in giro per l'Italia, a parte che il paludatissimo ed esclusivissimo Sanremo, attraverso cui si accedeva attraverso meccanismi più complicati ed esclusivi rispetto a quelli di oggi, non avevano altra possibilità per propagandare le loro canzoni, le loro produzioni. Quindi, prima ancora che si pensasse che esisteva la televisione come strumento invasivo e totalizzante delle coscienze familiari, prima che la televisione mettesse a punto questo meraviglioso meccanismo per cui lo spettatore diventa protagonista, per cui ciò che doveva essere un mezzo, un medium, diventa una finalità, prima che nascessero quei fantastici programmi chiamati talent show come Music Farm, X Factor, Amici, in cui personaggi apparentemente fuori da tutti i circuiti, ma in realtà fortemente supportati dalle grandi case discografiche, vanno in televisione e mostrano le loro capacità canore con una giuria di personaggi famosi che li giudica, e comunque si crea un meccanismo di promozione e di esistenza. Quando ancora questo non accadeva, diciamo dalla metà dei fantastici anni 50, in cui il paese cominciava a risvegliarsi dalle angustie delle canzoni che andavano cantate a passo di marcia o che rievocavano solamente i fasti, gli eroismi e poi le disfatte degli italiani, beh, la emergente canzone italiana ebbe modo di far capire agli esseri umani che anche alle nostre latitudini, come il fotoromanzo era l'emulazione fallita ma fantasticamente imbevuta di sensi profondi di partecipazione della grande Hollywood, il musicarello era la lettura nostrana di quello che era il musical. Quindi i grandi personaggi, quelli oggi ancora rappresentano gli inossidabili punti fermi della canzone italiana, coloro che decidono, coloro che stabiliscono, coloro che ancora mantengono fortemente la loro leadership, nacquero in questo meraviglioso alveo. Le ragazze che escono con i soldati sono considerate male. Perché? Perché quando avete finito la ferma ve ne tornate a casa vostra. E ti saluto Scuffia. Ti saluto cosa? Ti saluto Scuffia. È una frase che usa sempre papà per dire addio. Chi si è visto, si è visto. Tutto è finito, insomma. Per noi è appena cominciato. Sai, tu per me sei stata come la fata turchina per Pinocchio. Addirittura. Guarda che a Pinocchio, quando diceva le bugie, si allungava il naso. Allora, il mio non dovrebbe proprio esserci. Giovanissimo Gianni Morandi nel 1964 faceva il soldatino, ma realmente Gianni Morandi ebbe la sua epopea militare come la ebbero altri cantanti, e naturalmente il meccanismo di promozione molto casareccio, molto naif attorno al personaggio lo faceva vedere cantare vestito da soldato, come si vestivano i soldati appunto negli anni 60, era l'anno 1964. Il giovanissimo Morandi soldatino, conosce quella che poi sarà una, sarà probabilmente la donna della sua vita, Laura Efrican, così io lo pronuncio, ma il sommo Giuseppe Sanzon qui accanto a me ha un'altra teoria sull'accentuazione, come la chiami te? Efrican, tra l'altro c'è le, però è come Salgari, è come un'annosa questione quella. Però vediamo se è Efrican, magari chi ci ascolta questa mattina, che ha strumenti probabilmente anche anagrafici per supportarci meglio, se la donna di Gianni Morandi si chiamava Efrican o Efrican. La variazione è notevole. Beh, Morandi soldatino, ingenuo, naturalmente trova questa ragazzina, la corteggia, le dice sì, poi la scuffia passa. Ai tempi si chiamava scuffia, il preludio alla copula fra un militare che, come ogni marinaio, poi si allontana, se ne va, e la giovane fanciulla che non doveva concedere quello che allora si chiamava la prova d'amore. Ecco, vediamo di tracciare Sanzon allora agli inizi. Come nasce il musicarello? Un genere prettamente italiano? Sì, forse in Bollywood rivediamo qualcosa di simile. Esatto, oggi. Esatto. Nel cinema indiano abbiamo la sfrenatezza del musicarello, la sfrenatezza kitsch recuperata appunto dagli indiani, che ne sfornano uno al giorno, uno all'ora di questo tipo di film. Però facendo un brevissimo tracciato, già dagli anni 10 nei film napoletani, di sceneggiata napoletana, c'era un riferimento al loro patrimonio musicale, però qui si tratta di i film che nascono negli anni 60 in contrapposizione anche a quella tradizione melodica napoletana e romana dei Claudio Villa. Questi film di cui parliamo, Gianni Morandi, Celentano, sono gli urlatori, i giovani, in contrapposizione a quella tradizione che è quella dei genitori, quella genitoriale, che in questo film è incarnata per esempio da Nino Taranto, questi grandi attori che venivano affiancati appunto a Morandi, che aveva una recitazione piuttosto discutibile, e poi c'era la Efrican, che invece era un feticcio di questo genere di film, che veniva dalla cittadella, aveva quest'aria tisica, costantemente malaticcia, la classica brava ragazza. Per quanto Morandi fosse il bravo ragazzo, hai sentito? Sì, sì. Quando dice ti si allunga il naso come Pinocchio, cioè a me non si allunga nulla. C'erano dei significati simbolici di rassicurazione, certo, delle totale madri. Totale rassicurazione. È bello che Morandi venga considerato un urlatore. Sì. Gli urlatori erano gli scapigliati, erano le prime avanguardie di quello che sarà il grande movimento di contestazione, grande nella percezione che abbiamo oggi noi nella post letteratura, ma in realtà allora non fu percepito come tale. Per cui siamo nel 64, lì a 4 anni si comincerà a parlare di qualcosa come il maggio francese. Quindi Morandi rappresentava, pensa bene, sì, la punta più avanzata della contestazione allo statu quo, al pensiero passatista. Gianni Morandi, il soldatino per bene che cerca la ragazzina, era considerato, guardato scuotendo il capo, come questi giovani che vogliono rovesciare il mondo e cambiare il mondo. E pensa che oggi Morandi rappresenterà uno dei punti più indissolubili del potentato musicale italiano. Ancora fa i sabato sera su Rai 1, la gente si genuflette, si inginocchia come se passasse la Madonna Pellegrina. 800 24 00 24, ricordate cosa mai fossero i musicarelli? Avete memoria dei musicarelli? Potete aiutarci a tracciare quello che era il clima degli anni in cui il musicarello rappresentava la unica rappresentazione visiva di quello che poi le persone ascoltavano su quei fantastici dischi in vinile da 45 giri? Il nome, voglio sapere il nome. No, e lasciala mangiare in santa pace a questa povera creatura. La povera creatura mi deve dire il nome e il cognome del soldato col quale è stata in giro fino a quest'ora di notte. Di sera. Per me dopo le 8 è notte. Avanti, dimmi il nome, come si chiama? Non lo so, papà. Ah, non lo sai, eh? Capisci? La figlia del maresciallo Todisco se ne va in giro di notte per Napoli con il milite ignoto. Non esistendo ancora nemmeno l'idea del videoclip, c'erano qualcosa che rappresentava forse il primo tentativo videoclip, erano dei piccoli video che andavano in della specie di jukebox molto più avanzati. C'erano alcuni jukebox che potevano anche permettere un piccolo video musicale. Oggi sono delle grandi rarità, vengono raccolti e collezionati. Poi l'unica maniera, riguardando un musicarello, è di capire quello che era veramente il clima in cui si generava una canzone. In ginocchio da te, una canzone che oggi magari molti ricordano, tutti ricordano, fa parte della canzone italiana, ma capire quali furono i motivi ispiratori e cosa c'era dietro il libro di mi inginocchio a te, bisogna ritornare a queste radici. Il padre meridionale, non a caso carabiniere, militare, qualcosa che rappresenta comunque una sorta di trade union con un passato eroico, bellicoso, esorcizzato, ma che rimane nella figura di tutore dell'ordine, della rettitudine, del carabiniere, mostra quello che era la costumanza del tempo. Alle 8 e sera la ragazza esce con il milite ignoto. Guardate, si dà un senso che ci si sarebbe potuto permettere soltanto in quell'epoca. 20 anni prima sarebbe andato al muro se avesse mai scherzato su uno dei simboli più sacri su cui veniva fondato il senso della patria, il senso del bellicismo, del combattere. Il milite ignoto rappresentava il ragazzo che non si conosceva, non si era ancora presentato, colui che nella sua condizione transumante di soldato avrebbe soltanto portato a tentare all'onore della ragazza, non sposarla, non aveva ancora una professione, quindi non convolare a giuste e benedette nozze. Sì, Nino Taranto aveva una nausea totale di questi film, ma li faceva perché questi film per motivi totalmente alimentari, e quindi incarnava questi ruoli mettendoci la sua verve comica. Questa battuta sul milite ignoto è sicuramente farina del suo sacco, introdotta in un film completamente anemico. Questi film costavano 40 milioni e ne incassavano 1 miliardo, perché la gente poi andava, reiterava la visione appunto come se fosse un videoclip musicale. Questa cosa dobbiamo dirla, perché oggi è difficile per chi va al cinema, è finito lo spettacolo, si accende luci, si esce. Una volta si entrava al cinema alle 3 di pomeriggio, si poteva uscire anche alle 8. Se si era in tenera compagnia, era una delle alcove di semioscurità possibili e immaginabili, si metteva nelle ultime file, ci si copriva con il cappotto e si restava lì. E il cinema come rifugio, un peccatorum dove si adescava, si veniva adescati, insomma, sì, si andava nel cinema di parrocchia, poi era terrificante, in effetti, sì, è vero. E quindi raccontava lo stesso Taranto, ma anche gli stessi registi di questi film, che lo stesso Morandi, che attendeva sempre a incurvarsi e ad agitare le sue enormi mani scimpanzesche, no? E quindi ne curavano un po' la recitazione per evitare che sbracasse, però aveva una grande tempra fisica, era in grado di girare 24 ore al giorno, perché comunque questi film andavano fatti molto velocemente, sempre nell'orgia degli anni 60 della produzione popolare di cinema a getto continuo, a catena di montaggio, perché poi appunto questi film hanno tenuto in piedi la Titanus di Lombardo, perché incassavano, costavano pochissimo, no? Questa trama semplicissima girata in una caserma, in una casa privata, e finiva lì, quindi e incassavano invece grosse quantità di denaro. Consideriamo che erano il punto di riferimento visivo anche sugli atteggiamenti, sulle mode, su come ci si veste. Il camminare curvo di Gianni Morandi era imitatissimo, sì. In tutte le strade polverose di tutti i paesi del meridione d'Italia, in tutte le periferie della suburra del grande nord industriale, vedi i ragazzetti camminare un po' gobbi con i calzini bianchi, con i mocassini, che imitavano Gianni Morandi. Sì. E aveva poi questa recitazione assurda, per esempio lo stesso Bobby Solo, che era il più autocosciente, diceva "me sento un carciofo" quando recitava, perché avevano questa recitazione, erano cantanti prestati al cinema, avevano una recitazione involontariamente brechtiana che straniava continuamente. Infatti se senti Morandi rispetto a Leif Rikian, che ha una sua maniera, veniva dalla Cittadella, veniva appunto, faceva la tisica in questi sceneggiati, e comunque c'è un contrasto, perché lei almeno un mestiere ce l'ha, lui invece strazia qualsiasi battuta, la strania, la distrugge, la demolisce. Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, prima di tutto, Efrikian, perché comunque un cognome armeno. Lei ha ragione, io ho detto Efrikian probabilmente per una sorta di censura familiare in tutto ciò che potesse dare assonanze libertine, quindi la chiamavamo Efrikian. No, volevo dire che io ho 40 anni, sono cresciuto vedendo, non quando li pubblicavano, qualche anno dopo, tutti questi film che non sapevo chiamarsi appunto Musicarelli. Ma la cosa giusta è che comunque una cosa del genere si trova anche nei film di Bollywood. Io sono stato in India qualche volta e mi ha divertito molto assistere a questi film dove una recitazione di cui non capivo ovviamente le parole, però cambiava ambiente e cominciavano a cantare. Diciamo però che c'è un sistema universale per rappresentare attraverso le canzonette sentimenti, modi di essere, sentire del mondo popolare. La sua generazione infatti vede questi film perché per secoli la televisione l'ha sempre trasmessi l'estate, la mattina, nei momenti di buco. Mi sta scrivendo un'amica che ha dei bambini di 6-7 anni, che sui bambini vanno pazzi per i Musicarelli, perché ci sono ormai canali specializzati nel pacchetti di Sky che trasmettono questi B-movie, ma che in realtà sono dei delle testimonianze importantissime dell'epoca. Se noi vogliamo risalire all'indietro e osservare dei modi di sentire, dei modi di vestire, dei modi di percepire anche la storia che leggiamo molte volte modificata, storpiata, reinterpretata, dobbiamo attingere a questo tipo di radici. Io almeno sono così. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo dire, io sentivo Gianni Morandi, insomma, parlavate di lui, quindi, però sinceramente lui è un mito per me, perché io ho 40 anni, però io sentivo le sue canzoni quando ero piccolino, perché con i 45 giri si ascoltavano le sue canzoni, però per me veramente è stato... un cantante è stato... Beh, è vivo ancora, esatto. Un po' mummificato, ma ancora vivo. No, un cantante... Ha molta formalina nelle vene, ma è ancora vivo, guardi, sta bene, canta. Anche perché, le ripeto, è un mio mito, cioè, nonostante abbia 40 anni. Ma lei lo seguiva attraverso il musicarello, genere che è la preceduta di almeno 30 anni? Sì, no, io seguivo Gianni Morandi, che avevo 7-8 anni, ma poi... con i 45 giri, cioè a me mi facevi impazzire Non son degno di te, oppure Scende la pioggia, oppure... Beh, vediamo che ancora il senso della nostalgia per coloro che seminarono con i musicarelli è ancora vivo anche nelle generazioni più giovani dei quarantenni. Io sicuramente ho 40 anni, però... L'ha già detto, la seguiamo. Sì, l'urlo, cioè la voce elevata a potenza, è uno degli aspetti più singolari del genere umano. Si urlava infatti fin dagli albori dei tempi. Traditore, riprenditi le tue lettere. Rimettelo per sempre al bando, i cantanti urlatori! Hello! Adriano! Cosa vuoi, americano? Pupa! Mi rendo conto che oggi è abbastanza difficile definire elementi o individuare elementi di trasgressione in Celentano. In Celentano sembra una sorta di camomilla per ospizio ogni volta che apre bocca. Beh, allora era annoverato tra gli urlatori, tra coloro che mettevano a repentaglio il rigore e la correttezza, un po' come oggi ancora ci sono quei vecchietti che parlano di giornalismo urlato, quel giornalismo urlato o quella televisione maleducata che ancora si scandalizzano per questo. Di cosa stavamo parlando? Questo poi diamo la linea. Urlatori alla sbarra del 59 di Fulci, talento anarchico di Fulci, che riesce a riunire sullo stesso set Chet Baker, Lino Banfi, Brutus, Celentano, Mina, Turi Pandolfini, Mario Calotenuto. C'è un delirio, una scena delirante, e si parla appunto delle versioni degli urlatori, dei nuovi cantanti che hanno questo modo di cantare importato dall'America, dal boogie woogie, dal, appunto, che di marca celentaniana, la sua capacità di rielaborare col suo slang milanese le suggestioni che arrivano da oltreoceano. E qui c'è un Chet Baker soprattutto strafatto di morfina nella vasca, che chiama Adriano, lo chiama al telefono, quindi c'è una sorta di strafatto realmente di morfina, se lo dimenticavano nella vasca sul set o sotto il divano perché non riuscivano più a risvegliarlo. Questo era un po' il contesto, a fianco a Lino Banfi, insomma, c'era una serie di cortocircuiti incredibili, ed è lo spazio per mostrare la trasgressione delle nuove canzoni di Mina, di Celentano. Qui Celentano canta una canzone dedicata a Khrushchev, il Nikita Rock, che poi sentiremo dopo, insomma, una... Sì, già c'era la vena anche di oltraggio politico, perché nominare Khrushchev, anche se faccia parte comunque del disgelo, dell'apertura e via dicendo, nell'Italia ancora fortemente, radicalmente, totalmente egemone nella fede democristiana, veniva considerato comunque qualcuno che sta dall'altra parte, la parte di chi contestava, di chi era cattivo. Melog 2.0 Bye. 800 24 00 24. Stiamo parlando di un genere di film che forse pochi conoscono o molti hanno conosciuti nella rivisitazione che la televisione ha fatto di questi film. Sono i musicarelli, sono i film che da metà degli anni 50 fino ai primissimi anni 80 avevano la doppia funzione di lanciare i cantanti, i nuovi dischi delle promesse o degli affermati artisti della musica leggera italiana, e allo stesso tempo essere vettori di mode, di costumi, i vestiti di Rita Pavone, ai taglio di capelli di Caterina Caselli, appunto ai mocassini Gianni Morandi, ai pantaloni bicolori alla Celentano. Quanti sarti di paese nell'entroterra perugino, ricordo, furono costretti da mamme con i figli assolutamente perentori a costruire i pantaloni alla Celentano, che erano terrificanti. Erano dei pantaloni tipo i pantaloni da lavoro da cavallo che si usano oggi, fatti in fustagno bicolore. La parte interna era color beggiolino, caffè latte, e la parte esterna era marrone. Erano bellissimi, sembravano una cosa meravigliosa. E quanti sarti riprendevano il fustagno con cui facevano le cacciatore dei padri, cercavano di fare i pantaloni alla Celentano. Fabio Conti mi scrive su Facebook, mi dice che questo genere di film gli fa venire in mente l'estate degli anni Ottanta, in cui il ragazzetto passava le mattinate a guardare i musicarelli facendo finta di fare i compiti per l'estate. Erano i film con Albano, con Romina, con Celentano e ovviamente Morandi. Giuseppe Sansonna, abbiamo sentito la mitica canzone a Khrushchev di Urlatore alla sbarra, in cui Celentano dimostrava allora la sua fede politica, il suo oltranzismo nei confronti dell'amore per il socialismo reale. Allora quella la possibile trasgressione rappresentabile. Celentano è un personaggio anche in parte inventato dallo stesso regista di questo film, Fulci, che poi scriverà per lui Il tuo bacio è come un rock, aveva scritto in quegli anni. Autore anche di importanti film di cui non abbiamo ancora parlato. No, di cui parleremo. Puoi citare un titolo? Non si servizia un paperino, Shock, Fulci parli, sì. No? Un grande regista horror italiano di quegli anni, un genio totale, l'aldilà, insomma, un grandissimo. Ma qui Celentano si propone come personaggio in bilico fra l'umorismo di Jerry Lewis e l'erotismo di Elvis, e questa andatura dinoccolata, molleggiata, e si agita in questo salotto di questo onorevole democristiano, dove c'è Mina, che è la nipote di questo, c'è un senatore democristiano che è incarnato da Turi Pandolfini, che era un attore nato nell'Ottocento, che invece apprezza gli urlatori, mette suo Parkinson al servizio delle melodie cantate da Mina e da Celentano. E Celentano cita Nikita Khrushchev, che in quegli anni si distinguerà per la scarpa sbattuta sul banco delle Nazioni Unite in un atto di ribellione, ed era appunto gli anni in cui faceva la guerra con gli USA per la supremazia nei cieli, mandava i Gagarin nello spazio, e qui Celentano cita appunto gli anni che la contrapposizione erano i medaglioni con i tre profili: Kennedy, Martin Luther King e Papa Giovanni, e sì. Dall'altra parte chi aveva il medaglione con i tre profili e chi invece ancora faceva il Don Peppone, che era la rappresentazione bonacciona di quello che invece questi giovani scapigliati, urlatori, cattivissimi volevano rappresentare. Ah, il mio disco, grazie Federico. Allora, cin cin. Alla tua nuova macchina. Grazie. Ma cosa stai dicendo? Non dirlo. Che effetto ti fa sentirti cantare? Ai primi tempi un certo effetto si prova, poi ci si abitua a tutto. Figurati che dovrò cantare in inglese. Ma tu lo conosci? Nemmeno una parola. E come farai? Lo imparerò alla English School. No. Sì. Anch'io andrò a quella scuola. E pensa, ai grandi magazzini c'è un posto per corrispondenti inglesi. Figurati se me lo lascio scappare. Allora saremo compagni di scuola. Di banco. Ma dell'ultimo, naturalmente, così potremo un po' chiacchierare. No. Non ho. Finalmente, questa è Caterina Caselli nel film Perdono del 66. Caterina Caselli, che oggi è una delle più note e fortunate produttrici di talenti, le sue signore spopolano la canzone italiana, allora nacque appunto per questa idea del casco d'oro. Su questo film ha qualcosa a dire Sansonna? Sì, fu maestra di look più che altro. Sì. Come dicevamo prima, dice fuori onda, raccontavi di come la mascolinità di Caterina Caselli emergesse prorompente in queste. Uno la sentiva solo cantare, sentiva una voce appunto femminile, poi la vedeva muoversi con quest'aria un po' da benzinaio, e capiva anche molte cose, molte sfumature del suo. Poi c'era il bello di mia madre era innamorata del bello di questo film, che era Moroni, Fabrizio Moroni, che gente prestata dai fotoromanzi a questo tipo di film. C'era la solita teoria dei vasi comunicanti che metteva in comunicazione. Sì, la legge della maniglia, cercavano di prendersi la mamma che la figlia nella passione di seguire questo film. Le madri guardavano i fotoromanzi, le figlie vedevano questo primo esempio di ambiguità femminile, casco d'oro. Abbiamo Francesca. Francesca, buongiorno. Salve Nicoletti. Niente, noi siamo coetanei. Non lo dica però, perché mi si stringe il cuore nel pensare. Io sono, guardi, sono una sua fans. Senta, mi ricordo quando ero bambina trascinavamo le nostre mamme, perché mi ricordo che avevo avuto e non andavo ancora al cinema da sola, e a vedere questa Caterina Caselli con le mie amiche, e eravamo tutte quasi, non so, avevamo una sorta di fascinazione, fanatismo per questa... E volevamo, abbiamo trascinato anche le nostre mamme appunto a portarci da parrucchiere per fare questa imitazione di caschetto, che poi noi non eravamo neanche bionde, per cui... Ma doveva essere il casco d'oro, scusi. Volevamo essere casco d'oro. Tutto. E invece eravate casco marroncino. Marrone, pazienza. Beh, tristissimo. Ma mia mamma... Perché non vi faceva scolorire i capelli la madre? No, non eravamo arrivati a questo punto. Ma perché? Vediamo se si ricorda, se la sua mente... Ma guardi, ogni tanto... Perché i capelli biondi le portano le poco di buono. Sì. Quella poi fuma per strada e ha i capelli ossigenati. Quando una donna ossigenava i capelli... Bionda finta comunque. Cioè, bionda fintissima, nera come la pece. Si vedeva tutta la crescita. Certo, ma allora la ricrescita non veniva considerata come un'onta, non ci si faceva molto caso. No, ma mia mamma trovava questa cantante un po' tipo Camallo, ecco. Cioè, quelle vocione proprio, diceva. Sì, ma io me ne sono accorto soltanto rivedendo i film di Caterina Caselli a distanza di 40 anni. In realtà sì, era abbastanza Camallo nel suo muoversi, sì, ma il suo fascino era proprio quello. Il suo fascino era proprio quello. Sì, proprio gridava, insomma, non era fine, ecco, non aveva niente di quello che volevamo poi adesso, cioè avrebbero voluto che diventassimo noi, ecco. E invece lei cosa è diventata? Ma io sono una donna abbastanza viva, nel senso che... Beh, sta parlando ancora, ho delle passioni, diciamo, ancora non da signora, ecco. Non da signora che vuol dire? Non da signora, cioè mi piacciono, non so, faccio collezione di calamite, mi piace attaccare tutte quelle cose che suonano in casa, in cucina, non so, non mi... Beh, piace... Pensavo molto peggio, quando mi dicono ho passioni non da signora, subito le mie stanche membra hanno dei residui di brivido, quindi finché lei colleziona le calamite sul frigorifero stia tranquilla. Cioè, sono, gioco. Anche con i miei figli, cioè non sono... Vabbè. La signora, diciamo, con... Si avvii tranquilla verso il suo tramonto appiccicando calamite al frigorifero, grazie. Yolanda? Yolanda? Corra, Yolanda, sì, sta correndo. Ecco, dove era andata? Eccomi. Perché si è allontanata dal telefono? No, eccomi. Allora, cosa c'è da dire? Io volevo dire innanzitutto che i vestiti me li cucivo da sola. Della Rita Pavone, a bicolori. Ah, lei era appassionata di Rita Pavone? Beh, Rita Pavone, Gianni Morandi, Fabrizio Moroni, mi faceva morire. Ma che fine ha fatto a proposito? Non so adesso, ma allora cosa si cucina? Guarda, la svelta mi stanno facendo dei segni inquietanti, al di là del vetro devo dare la linea all'informazione del traffico. Mi dica il vestito di Rita Pavone che lei si faceva cucire dalla sua mamma. No, me lo cucivo io, perché io già avevo 14-15 anni. Oggi sembra impossibile che una 14enne sappia cucire un vestito. Io andavo dalla sarta a imparare. E di conseguenza poi magari me lo facevo tagliare. E com'era il vestito di Rita Pavone? Io non me lo ricordo. E quelli a righe, neri, lo vedevamo bianco e nero, però non le facevamo, magari rosa e blu, capito? Ah, dei vestiti corti, una specie di sacchi, vestiti corti, che poi sacchetti delle caramelle. Per metterceli dovevamo vestirci fuori, perché a me piacevano le minigonne, papà non voleva. Ah, le minigonne. E quindi si andava al pianerottolo. So che erano talmente tisiche le ragazze a quei tempi, se anche mettevano la minigonna non attizzavano nemmeno un ergastolano, quindi era una cosa tenera, non era le minigonne di oggi che si mettono le signore con l'autoreggente. Erano appena uscite. Vabbè, erano bei tempi, romantici. Non volevo. E poi non è che le metto fretta, signora, mi stanno facendo dei segni, veramente mi turbano. Devo lasciare la linea alle informazioni del traffico, abbia pazienza. Melog 2.0. Davvero, sa, io lei non avrei mai fatto... Perché lei mi è molto, ma molto simpatico. Ah? Tenga la sua simpatia e stia al suo posto, signorina Sant'Angelo. Mi tengo la mia simpatia, tanto lei non se la merita. Ma come si permette? Si comporti educatamente, mocciosa. Mocciosa a me? Ma chi ti credi di essere? E pensare che io, Ma da questo momento peggio per te. Mi vendicherò e ti tormenterò come una zanzara. Accidenti alle zanzare. Posso sentire, mi sento male, veramente ho delle fitte forti, ma lo sai perché questa canzone mi ricorda le mie scuole elementari. Ah. Rita Pavone corrisponde più o meno a qualcosa come tipo la mia seconda elementare. Gian Burrasca. Gian Burrasca. Ecco, questo è un altro modello, Rita Pavone, di femmina che non era femmina, sì, con una voce straordinaria, assolutamente straordinaria, con questo poi dopo in seguito marito Pigmalione, sponsor che la portò in giro per il mondo, Teddy Reno la fece di lei una vera cantante. In questa sua primissima versione poi la zanzara faceva la piccola scavezzacollo, la pippi cazzelunghe de Noantri, qualcosa del genere, non si capiva bene cosa fosse, poi aveva un grandissimo successo. Corrispose alla liberazione da alcuni vincoli proprio di vestiario. È vero, le ragazzine si mettevano la minigonna da Rita Pavone, che era una minigonna totalmente casta, priva di ogni malizia. Era più il grembiulino della ragazzina elementare cresciuta e continuava a rimanere piccola. Sì, poi c'era, qui c'è il suo contraltare, e Giannini, il timido Giannini, reduce da David Copperfield con la sua aria compassata, che qui in questo film poi di notte invece diventerà un cantante ye, avrà questa doppia natura, Jekyll Hyde di Giannini, e la Pavone si inserirà in questo. E quindi è un pretesto per parlare di musica ye, di raccontare queste nuove tendenze, insomma. Ecco, nelle infinite contaminazioni possibili, nelle più improbabili genealogie, nelle radici nascoste, occulte e probabilmente inconsapevolmente elaborate nel corso degli anni di alcuni grandi, enormi, fantastici personaggi della canzone italiana, non possiamo fare meno di fare questa citazione. Per prima cosa dovete rendervi ben conto degli elementi base della musica. Ricordatevi che nella musica si debbono innanzitutto distinguere il canto, l'armonia e la melodia. Il ritmo è una suddivisione del tempo. Senza ritmo non si può concepire la musica. Prendiamo ad esempio una canzone qualsiasi. Lasciamo in questo caso completamente da parte l'armonia e la melodia. Ecco, leggete la prima riga. Mia serenata vola nell'aria, va a cantare nel blu. Ecco, nella vita voi questo lo dite con inflessione. È impossibile pensare, immaginare che costui, questo maestro di musica che insegna Schubert con il metronomo sullo sfondo alla giovane Romina Power, sia proprio Albano. Sì, non è che insegna Schubert, scusa, permetto di correre, è Schubert, tragicamente, cioè qui siamo nell'hard più estremo. Questo è, cioè, ah, lui proprio, è un film in Angeli, storico. Angeli senza paradiso, qui siamo proprio nel porno della canzone, cioè lui incarna Schubert, il ragazzo di Cellino San Marco con la gorgiera. Ah, perché aveva quegli occhialettini all'Albano. All'Albano, quindi ecco, hanno pensato di usare il dettaglio per ricollocarlo. Per farlo diventare Schubert. Cioè, da Cellino San Marco al mondo di Schubert, insegna addirittura alla... Quindi è un film in costume. Sì, sì, in costume, in cui c'è Romina Power, fa la contessina Anna Roshkoff, anche lei abbastanza catatonica, come ricorda la Power all'inizio. E lui fa Schubert. La Power fresca di film di Justine, di film erotici. Beh, film semizzozzi, mi ricordo. Quando un film in cui Romina Power crocifissa nuda, qualcosa del genere, delle cose... Jesus Franco, erano questi film tratti da Sade. Jesus Franco, lei però mantiene la stessa catatonia dal mondo dell'erotismo a fianco a uno Schubert cellinate come Albano. Certo, il salto verso l'Alecciso poi è stato notevole, è stato un cambio veramente drastico. Le vertigini dell'io. Però Albano è rimasto. Albano, sì, sì. Intoccabile. Albano... Romina sì, ha avuto le mutazioni, è riapparso ultimamente in un terrificante prima serata del sabato di Rai 1 in cui vennero presi questi residui del passato a cui veniva fatto reinterpretare un videoclip. E Romina vince la prima serata e fa un videoclip assieme alla figlia. Loro sulla spiaggia, arriva una bottiglia con un messaggio nella bottiglia, la figlia canta e interpreta la madre quando era giovane. Una cosa che veramente il cuore ti si spappolava assieme alle coratella. Mi si accappona la pelle solo a sentirlo evocare da te adesso. No, è bellissimo perché poi appunto... E questo è uno di questi film, Albano e Romina poi si congiungono nel loro amore, perché fatale sarà Nel sole, un musicarello, e li farà incontrare la figlia di Tyrone Power, insomma la figlia di uno dei miti di Hollywood, che incontra questo ragazzo questo, che sa di campagna, sa di vino buono, di olio, ben, di olio fatto in casa, e si incontrano e danno vita a questa le olive come si esprimevano una volta. Una volta. Gigi, buongiorno. Gigi? Pronto, buongiorno. Eccolo. Io volevo portare, buongiorno a tutti, volevo portare la mia testimonianza, perché io negli anni dei Musicarelli li andavo a vedere. Li andavo a vedere perché ci andavano tutti. Allora non c'era la televisione come c'è oggi, che trasmette MTV più tutti gli altri sì, canali. Sì, ma c'erano poche ore di televisione in tutta la giornata. Sì, però al pomeriggio si andava al cinema, anche perché poi d'estate, il discorso era sempre quello, d'estate si andavano a vedere chi poteva, nelle balere, nelle discoteche, tutti questi ragazzi che venivano allora, perché faccio l'esempio di Gianni Morandi, che è cresciuto d'estate con noi, perché lui faceva il ragazzo in una sala giochi a Bellaria e poi cantava. Quindi lei ha avuto una conoscenza anche diretta di Gianni Morandi? Sì. Per cui si andava a vedere questi film, i primi film che uscivano, si andavano a vedere d'inverno, perché uno diceva, poi questo qui io l'ho visto quest'estate, sono andato a Cesenatico con la balera, era lì, e oppure si andava con la ragazza a dire, ecco, io c'ho una foto con questo, c'ho un autografo con quell'altro, allora ci si divertiva con questo. Era una cosa simpaticissima, si andavano a rivedere. Si è sopravvissuti lo stesso, sì. Sì, ci si medesimava in quelle azioni, dicevo, ma quest'estate abbiamo. Anche non è che c'erano altri molti modelli per capire qual era la moda, qual era il trend giusto. Ha nominato tra gli altri, mi ricordo ce n'era uno, era Fabrizio Cappucci, che se non sbaglio aveva sposato Catherine Spack. Guardi, era uno che sta rivelando la mia profonda lacuna in questo momento, non saprei cosa dire. Era tutto tirato, tutto in tiro, come c'era un altro cantante sempre in tiro, Dino. Ah, Dino me lo ricordo. Dino è riconoscibile. Dino fu lanciato da Sette Voci di Pippo Baudo, adesso è completamente pelato e quindi non si riconosce più. Mio figlio, eccolo là. È un po' difficile vivere. Che bel figliolo. Stassi attenta che presto qualcuno glielo porta via. Oh, la figlia, la compatisco. La compatisce? Ma come un atleta? Con l'animo di poeta? Da un sette. Gira. Ecco, questo era Claudio Villa, l'altra parte, l'altra faccia della luna, il testimonial più virulento della canzone melodica, della grande canzone italiana, era Claudio Villa. Il Reuccio di Trastevere, qui lo vediamo, c'è Aveninchi che parla di lui, e lui è in canotta che si sta preparando e comunque canta come se fosse in uno studio di registrazione, ed era appunto la tradizione contro cui si scagliavano gli urlatori e i nuovi Musicarelli, era il cinema di papà, si direbbe. Andrea. Pronto, buongiorno, piccolo contributo, io sono nato negli anni 70, i Musicarelli li ho visti tutti la domenica mattina o la domenica pomeriggio quando c'è stato l'avvento della emittenza televisiva privata. Ecco, quindi lei sta confermando questa seconda ondata, tutto il B-movie italiano. Sì, praticamente i Musicarelli che hanno visto i miei genitori io li ho rivisti oltretutto in condizioni molto simili, perché se alla generazione dei miei genitori doveva crearsi il cinema come alcova, noi eravamo più fortunati e potevamo usufruire del divano di casa, ma comunque mentre guardavamo i Musicarelli. E un altro mito subito dopo questa, diciamo dell'adolescenza, per la nostra generazione è stato Max Pezzali degli 883, il quale, nostalgico dei Musicarelli, ha fatto forse l'ultimo Musicarello cinematografico. Fu un tentativo. 90, cioè, sì, un tentativo, ma riuscito. Che però non ridette vigore al genere. Parlavamo proprio prima con Giuseppe Sansonda, che ringrazio. Abbiamo capito molte cose in questa trasmissione, che lo sviluppo demografico del nostro paese deve molto a un sottofondo musicale fatto prima di Musicarelli, poi di Musicarelli visti nei canali generalisti la mattina d'estate mentre si facevano i compiti o si studiava con un'amichetta, e infine l'ultima generazione che oggi ha 6-7 anni li vede nei canali cult di Sky, intesi come appunto merce appassionante per questa sua patina di passato. Ringrazio Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.